Sì, ok, ciao. Finalmente oggi è stato un discreto parto, ma ce l'abbiamo fatta. E intanto, appunto, prima parlavamo con Le Boschi a Firenze e ti arriva anche da lì, oltre che ovviamente dai nostri studi, un in bocca al lupo, un bacio al presidente, da testuali parole da Firenze, e un in bocca al lupo enorme da parte di tutti. Ovviamente parlaci a ruota libera di questa nuova creatura che avremo il privilegio e l'onore di seguire da settembre. Ma niente, noi appunto abbiamo deciso a massa di mettere sul progetto appunto di una squadra popolare e anche appunto sulla scia delle altre squadre in Italia, appunto comunque un gruppo appunto di noi comunque appassionati da sempre di calcio. Così appunto abbiamo deciso di imbarcarci in questa avventura, possiamo dire. E nulla, per ora il progetto sembra si stia prendendo piede abbastanza bene, sia dal punto di vista della squadra che dal punto di vista anche comunque delle persone, appunto quando sentono parlare appunto di una squadra. Pronto? Sì, ci sono. Ah, okay, sì, quando appunto sentono parlare di una squadra di calcio popolare a massa, quindi la squadra praticamente dal punto di vista di giocatori è praticamente pronta, anche lì appunto sulla pagina abbiamo ricevuto abbastanza messaggi appunto di gente comunque che era interessata. Quindi è cresciuta in fretta la cosa, insomma. Sì, ma tantissime persone che chiedevano se potevano giocare o se non potevano, anche se non giocavano, se potevano venire a allenarsi. Così, e anche invece dal punto di vista appunto delle persone magari non interessate a giocare ma interessate a seguire la squadra, comunque sono anche lì arrivati tantissimi in bocca al lupo, tantissima gente che ci ha chiesto appunto come quando inizierò a fare le tessere, perché appunto uno dei maggiori appunto metodi di autofinanziamento che vogliamo avere appunto è quello del tesseramento, appunto il tesseramento alla squadra. E ora tra qualche giorno saranno pronte le tessere. Benissimo. E quindi insomma c'era nel territorio massese, c'era domanda, c'era bisogno di calcio popolare, perché insomma sì, è veramente sì, venuto fuori molto all'improvviso questo progetto, quindi ha avuto una crescita piuttosto repentina. Sì, no, infatti ha avuto appunto questa crescita assurda, e anche noi non ce l'aspettavamo come cosa, pensavamo magari fosse una cosa molto più lenta anche a venire accettata, invece appunto ci siamo appunto anche noi stupiti, perché c'è stata abbastanza un'esplosione, possiamo dire. Ora poi appunto vedremo come andranno appunto i tesseramenti, faremo vari banchetti appunto in città, nei vari appunto posti comunque che conosciamo. E ma dal punto di vista del campo invece? Dal punto di vista del campo, ecco lì è stata un po' più problematica appunto trovare un campo che comunque appunto che non avesse spese così alte, appunto, cioè spese che possiamo affrontare, perché un progetto di calcio popolare può affrontare appunto. È quasi sempre il problema più spinoso, insieme a quello dell'autofinanziamento, però forse ancora peggio. No, infatti, anche perché appunto ci sono stati campi che ci hanno chiesto cifre assurde, ora invece comunque abbiamo trovato un campo appunto dove paghiamo il giusto, e quindi ci stabiliremo lì comunque. Beh, benissimo. Intanto io vado verso la chiusura della trasmissione, che abbiamo anche già sforato appunto anche a causa dei vari problemi che avevo attribuito alla vostra distrazione, invece era colpa nostra. E niente, comunque qui da settembre toccherà attrezzarsi per venire assolutamente a massa a fare una diretta, visto che infatti, l'ultima volta all'ultima di campionato delle Boschi addirittura ho avuto l'onore di annunciare un gol in diretta, che non ho visto ovviamente, mi sono perso, però che insomma è successo. Spero di poterlo fare anche a massa, anche se poi il primo anno di gol spesso purtroppo se ne fanno pochini, di solito è duro l'esordio, ma magari no, no magari invece la Sparta, intanto diciamo il nome, la Sparta Capuano, mi sa che non l'abbiamo Sparta detto Capuano. Magari invece avrà un esordio pazzesco e subito protagonista, chissà, comunque verrò sicuramente, insomma. Per forza. Poi tra l'altro ora stiamo organizzando una due giorni che volevamo farla appunto verso la seconda metà di giugno, e volevamo anche appunto contattare alcune squadre di calcio popolare in Italia per appunto fare un triangolare e poi questa poi una festa. È sicuramente un'ottima iniziativa, hai fatto bene a dirlo, perché proveremo, ovviamente non garantisco nulla, ma proviamo a esserci, e se non ci siamo sicuramente ti faremo poi, o a te o a qualche altro compagno, di nuovo intervenire in radio per lanciare magari la settimana prima, la domenica precedente all'iniziativa, per parlare un po' della cosa sicuramente. Quindi ci risentiamo presto. Va bene, allora grazie mille. Niente, grazie a te, davvero. A risentirci presto, per fortuna, vedi? Ci risentiremo sicuramente presto.